Et avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Nel nostro consueto appuntamento settimanale in cui osserviamo l'evolversi o le mutazioni del costume attraverso il cinema, probabilmente con l'ottimo Giuseppe Sanson qui accanto a me, Giuseppe, buongiorno, abbiamo lambito soltanto, non necessariamente approfondito, una fetta del nostro cinema che però merita senz'altro questa mattina di avere gloriosa resurrezione. È un cinema che probabilmente la maggior parte delle persone che ci ascolta generazionalmente non ha potuto godersi, se non in una certa occasione e in un certo momento e in una certa congiuntura televisiva. Vi diamo soltanto un rapido assaggio sonoro, così entrate subito nell'argomento. Ma perché ha chiuso la chiave? Non lo so. Rosa! Rosa! Cosa è successo? Prenda qualche cosa, presto. Sì. Su, prenda qualche cosa. Sì. Rosa, svelta su. No, l'avvocato mi ha detto. A qualcuno verrà già da sorridere a sentire Amedeo Nazzari ed altre voci del genere. Emiliano Morreale, buongiorno. Buongiorno. Emiliano Morreale è un critico, studioso di cinema, scrive per Il Sole 24 Ore, ha appena pubblicato un libro fantastico della Donzelli Editore, Così piangevamo, che già il titolo mi riempie di fascinose attese. Il cinema melò nell'Italia degli anni 50. Quello che abbiamo sentito era Catene. Facciamo subito una introduzione al tema. Di cosa stiamo parlando? Il melò degli anni 50 è il cinema che andavano a vedere tutti. Erano i film strappalacrime, i film con Nazzari, Bone Sanson, eccetera, una specie di piccolo filone con delle sue caratteristiche ben precise che dal 50, appunto quando esce Catene, alla metà del decennio, è il genere assolutamente egemone del cinema italiano. La gente va a vedere quelli lì molto più di quanto non vada a vedere, per esempio, le commedie o i film comici, come sarà dopo e fino ai giorni nostri. Gli italiani di quell'epoca lì vogliono piangere. È una cosa piuttosto curiosa, si interrogano anche spesso. Io secondo me perché non si capacitavano del boom, non si capacitavano di essere ancora vivi dopo la guerra, non si capacitavano della vita che in quel momento sembrava sorridere, avevano questa sorta di senso profondo di colpa, volevano piangere. Catene in particolare, definiamolo, perché in Catene ci sono, c'è tutto il microcosmo dei sensi di colpa di quel tempo. Mi sembra che una delle fondamentali caratteristiche del cinema melò era di essere schiacciato fra un desiderio di pacatissima e nascostissima trasgressione e una grande cappa, anche benefica, anche salutare, anche culturalmente importante in quel periodo, che però era la grande democrazia cristiana che era egemone in tutte le culture e in tutte le coscienze. Sì, questi furono accusati anche di essere dei film molto, molto cattolici, di una morale molto cattolica, anche se ricordiamo che Catene fu... Si parla d'adulterio. Sì, sì, si parla d'adulterio. Era roba da galera in quel tempo. E soprattutto di menzogna, cioè l'idea di Catene è che la protagonista, che è una donna sposata matura, altra caratteristica dei melò di quel periodo, cioè non è la giovane innocente, è una donna, come dire, che tiene famiglia. Questa donna, per salvare il suo matrimonio dalla minaccia di un cattivo esterno che la ricatta, minacciando di rivelare che lei aveva avuto dei rapporti prematrimoniali, cosa peraltro falsa, allora lei... A un certo punto non sa cosa fare e Nazzari, che è suo marito, il marito di questa donna, equivoca, uccide l'uomo, finisce esule. Insomma, alla fine l'unica maniera che ha per salvare Nazzari, questa donna, Yvonne Sanson, è di dichiarare che sì, lei effettivamente ha peccato, con quest'uomo lei c'è stata e quindi suo marito può godere dei benefici del delitto d'onore, che all'epoca era perfettamente in vigore, e quindi tutto finisce in base a questa menzogna. Il film in Francia si chiamava La menzogna di una madre. Ecco, questa maniera un po' contorta di salvare l'istituzione matrimoniale, che ha l'effetto paradossale di mostrare tutte le contraddizioni, no? Perché diventa una specie di cumulo di menzogne e di roba repressa. Un omicidio giustificava una trombatella fuori campo. E a sua volta viene salvato da una dichiarazione falsa in tribunale. Ovviamente il Centro Cattolico Cinematografico lo dichiarò escluso per tutti. Questo non poteva essere visto, naturalmente. Poi, ovviamente, poi a quel punto Raffaello Matarazzo, che era il regista di questo film e degli altri principali del filone, aggiustò un po' il tiro e rese ancora più sottile, come dire, il discorso sull'istituzione matrimoniale, sui sensi di colpa delle donne, su quello che succedeva alla famiglia in quegli anni. Credo che il successo di questi film sia dovuto proprio a questo, cioè le donne, la famiglia, si trovano in una situazione proprio di compressione fra delle istituzioni, una chiesa, un potere politico, che erano fortemente arretrate, e invece una società che cambiava e che di lì a poco sarebbe diventata... Ma sai, se il modello era quello americano, se eravamo ispirati nei nostri consumi, le nostre aspettative di vita a quel tipo di modello, non conciliava male poi questa idea di questa sorta di gabbia soffocante, emotiva, emozionale e relazionale. Era un po' difficile. Giuseppe Sanzone, intanto 800240024, mi rendo conto di questi film, poco avrete sentito parlare, o se non ne avete sentito parlare, cosa rimane secondo voi di questo tipo d'Italia? Guardate che questa mattina stiamo sollevando il velo su un genere cinematografico che normalmente non appare nei cineforum, non ne parlano gli illuminati critici, è stato un po' nascosto, è stato messo sotto il tappeto. Secondo te perché, Giuseppe Sanzone? Ma comunque la cosa principale di questi film è molto interessante, il protagonista maschile, che era Amedeo Nazzari, già celebre per La cena delle Beffe, il famoso "e chi non beve con me peste lo colga", il primo scapezzolamento della storia del cinema italiano, con Clara Calamai, no? E a me piace molto quello che dice Emiliano in "Così ridevano", sulla sua tetragona ottusa bontà, che spesso è impotente, spesso è causa di disastri, è come un Otello sbiancato e marmoreo che trascina le donne con l'equivoco, una bontà ossessiva, ottusa, però non capisce e quindi innesca l'equivoco, che rispetto al tragico è il melodramma, appunto all'equivoco, e più il fato si degrada a caso e innesca appunto si viene sensi a pensare, questi indissoluti e indissolubili coniugi, ma non si parlavano mai francamente tra di loro, no, non si dicevano le cose come... Sembra di no, questa è la cosa terribile, non si parlavano, sembra proprio di no, sembrano estranei, completamente estranei. E poi la cosa molto bella è che Matarazzo piangeva durante le riprese, cioè Matarazzo aveva un'adesione piena a questo tipo di film, e le maestranze, ricordo di vederlo in lacrime, mentre Yvon Sanson aveva dei problemi a volte a piangere, lui la bacchettava con una bacchetta di legno. E poi aveva, c'era, diciamo, del sadomaso, no, sì, ma anche fuori scena sono dei film sadomaso, dicevi Emiliano, sono film sadomaso perché? Beh, intanto perché c'è evidentemente un piacere dello spettatore a vedere, molti di questi film hanno proprio un percorso di degradazione della donna, ma non c'è nulla di più catartico che osservare e giudicare la degradazione altrui. Questo ci assolve da ogni nostra colpa. Il cinema ce l'ha sempre avuto, cioè c'erano quei strani film fin da inizio del muto che mostravano, no, con, diciamo, alibi moralistici, la degradazione di queste donne che finivano appunto per fare la tratta delle bianche, finivano, ecco, nel cinema di quegli anni le donne sono spesso in catene, sono in catene letteralmente, sono o in carcere o in una famiglia particolarmente oppressiva piena di sbarre, o in monastero, spesso finiscono suore, oppure meno frequentemente e di solito in maniera allusiva in un casino, che spesso è, diciamo, per litote diventa il tabaren, sono ballerine. Artista e prostituta è la stessa artista cosa. Artista e prostituta sono assolutamente limitati. Infatti si stanno dibattendo gli italiani su questo grosso dilemma che risolse poi la senatrice Merlin. In realtà questa morale pubblica come faceva a giustificare il fatto che gli uomini avessero poi un luogo di palese sfogo dei loro sensi, non mirato alla procreazione sessuale, ma semplicemente al loro sfogo. Ricordiamo appunto, questi film sono fatti tutti mentre sono attive le case di tolleranza, che però possono essere mostrate sullo schermo solo con mille cautele, quasi metaforicamente. Ricordiamo Zatterin, quando dette la notizia al telegiornale della chiusura delle case chiuse, riuscì a fare un lunghissimo discorso senza mai nominare la parola casino, bordello, casa chiusa, quei luoghi che si diceva che si fosse non ci sono più e via dicendo. Ricordo la parola pappagalli, diceva, riferito agli utenti, diciamo, delle case chiuse. Sì, fa in mente un triste presidio clinico. Voglio mantenere quello che ho promesso, così non potrai più dimenticare. Parti di me! No! No! C'è qualcosa di meglio! No! No! No, il bambino no! Il bambino no! Non aver paura, non te l'ammazzo! Mi serve troppo per salvarmi! No! Prima di toccare me dovranno ammazzare lui! No, no! Ti supplico! Guarda! Mi inginocchio davanti a te! Prenditi la mia vita! Spregiami, torturami! Ma Fammi bere quello che vuoi. Te lo chiedo come una grazia. Ridammi mio figlio, è tanto piccolo, morirà. Se non ci fosse la sonorizzazione del bambino urlante, sembrerebbe un setting sadomaso in cui la slave chiede alla sua mistress di farle il più male possibile, l'altra, giustamente, la brava sadica, dice no, non ti faccio nulla. Beh, questo è, nei film di Matarazzo è sempre molto sotto pelle, cioè sempre, fin quando esplode in un film. Di che parliamo qua? No, questo è L'Angelo Bianco. Spiega bene, di la trama, spiega già questa la trama situazione. È una cosa assoluta, tu lo sai, ma chi ascolta non sa cosa succede. Sì, questa. Sì, sì. L'Angelo Bianco è il terzo film, è il seguito di Dei figli di nessuno, ed è un film con una trama assolutamente folle. È quasi, somiglia molto alla Donna che visse due volte, perché intanto i primi 10 minuti sono il riassunto delle puntate precedenti, che già è una trama complicatissima di agnizioni, figli morti, eccetera. Comincia con Nazari, che è proprio il personaggio che diceva prima Sansonna, cioè uno talmente ottuso che causa la rovina e la morte sostanzialmente di tutte le donne e i bambini che gli stanno attorno alla fine, perché lui non si è accorto che un suo figlio illegittimo è morto in miniera nei marmi, diciamo a Carrara, sotto un'esplosione della miniera. Dopodiché, quando se ne accorge, odia la moglie che gli ha tenuto nascosto questo figlio segreto, e odia la seconda figlia del matrimonio, se non che poi finisce col causare la morte anche di questa seconda figlia. E poi causa in particolare, che succede in questo film? Allora, la sua amante, chi è quella che implora fammi del male? Quella che implora è una cosa ancora più complicata. Questo è una cioè, trama raccontabile questo film? Irraccontabile, perché a un certo punto la prima donna di Nazari si è felicemente chiusa in monastero, in convento. Se non che, cosa succede per fare avanti la storia? Che su un treno Nazari la rivede vestita da suora? No, vestita da ballerina, diciamo da canzonettista, vertigo, da prostituta. È vertigo, perché chi è quella? È una sosia. È una sosia che, diciamo, è prostituta. Quindi la donna si sdoppia in santa e prostituta allo stesso momento, e Nazari lui ha un trip incontenibile. Tanto è vero che se le già immagina tutte e due assieme. E infatti costringe la seconda donna a vestirsi come la prima, mettersi i capelli. La suora vestirsi da ballerina o la ballerina a vestirsi da suora? La ballerina a vestirsi da quella che poi è diventata suora. La chiama col suo nome, eccetera, eccetera. Poi la cosa si complica ulteriormente fino a un finale catartico in cui la suora e la prostituta, diciamo, una fronte all'altra, in qualche modo fanno una specie di riconciliazione finale, si passano il bambino. E questa è la scena finale. Questa è la scena in cui la prostituta dà la suora al bambino. E che ci fa la suora col bambino? Questo bambino viene rubato da una compagna di detenzione. Infatti era un po' incazzato, piangeva. La prostituta è finita in carcere. Passa questo bambino a una compagna di detenzione cattiva che lo vuole utilizzare per ricattare, per fuggire. Fermati Milano, ferma, ci fai confusione. Michele, buongiorno. 37 anni. Scusa, ma stiamo cercando di darvi il senso di questo profondo filone letterario che, devo dire, non è scoperto. Oggi, giorni fa, c'era un'agenzia di stampa di un'associazione animalista che lanciava un appello, dice... Ci sono un filone detestabile di film di sesso con gli animali, fermiamo questo sconcio. È giusto, ma guardate che prima ancora ne hanno fatte di cose che in confronto sembra roba da educande. Non c'è nulla di più perverso, secondo me, che le trame di questi film. Michele, andiamo avanti. Sì, infatti io ho 37 anni e praticamente ricordo vagamente questi film, proprio questo film di cui voi state, diciamo, dibattendo stamattina. Avevo mia madre, mia nonna, insomma, che stravedevano per questo attore. E quando si parlava del film Catene era un momento, diciamo, idilliaco per loro, ma io lo ricordo come un momento tristissimo, dove queste lacrime scendevano praticamente a fiume da mia madre e da mia nonna, e noi dovevamo subire, insomma, ecco, queste forme, diciamo, di pianto, di dramma, e poi c'erano tutti gli elementi proprio di questo questo sconvolgimento. Ma chi sapete, negli anni 50 eravamo sempre piangere. A me mi regalavano il libro Cuore e mi guardavano, stanno attenti che dovessi piangere. A me non mi viene da ridere, il libro doveva far piangere. Quando facevo il catechismo, il prete ci raccontava la storia di un bambino francese fatto santo, una vita di malattie, cose terrificanti. E alla fine, mi ricordo del racconto, girava tra i banchi della chiesa dove facevamo il catechismo, e i più ruffiani piangevano tutti. Anche lì non mi veniva da piangere, diceva bravo Giovanni che piangi, bravo Antonio che faceva vicino a me, e mi guardava con una faccia, perché non piangevo? Perché bisognava piangere negli anni 50? Penso un un'altra cosa, che però ecco, ripensando e studiando anche quegli atteggiamenti materni, insomma, della nonna che guardava questi film dove appunto c'era l'aspetto della chiesa fondamentale, la fedeltà, il non tradimento, ma chissà, mi domando, se dietro questi loro pianti c'era una volontà ormai di voler invece dar sfogo a qualcosa di diverso, di voler, non so, ribellarsi a quella morale cattolica, di voler aprire, diciamo, il proprio come dire, il loro scrigno di idee, di cultura. Al solito chi apre lo scrigno non piange, ride, di solito, soprattutto no, se è una sì, donna. Però insomma era difficile allora poter aprire improvvisamente questo scrigno e farsi una sghignazzata sul film. Era forse un tormento interiore che dava sfogo a... Tormento è un'altra trama di uno di questi film. Giuseppe Sansonna, cosa dici rispetto a quello che dice l'ascoltatore? Anche contestualizzandolo poi nella storia del cinema di quegli anni. Erano delle gangbang sentimentali, insomma, era una sorta di finale, come in Casablanca, l'accumulo di cliché meccanici non può che portare... Spiego gangbang per i nostri ascoltatori più sprovveduti. È una mucchiata, di solito il rapporto è 25-1, ecco. Però come... Anche meno, vabbè, comunque, comunque come sottolinea bene Emiliano nel libro, così ridevano, cioè... C'è tutta. Piangevano. Così piangevano, che però è preso dal film di Amelio. Sì. Così c'è una sorta di legame col mondo culturale cattolico, delle sacre rappresentazioni, degli ex voto, e questa sorta di espiazione della colpa è comunque legata a questo. C'è una catarsi nel vedere questi film, in questo rito collettivo che sicuramente affonda nella matrice antropologica italiana del tempo. Era un'esposizione delle vanitas, come una volta mostravano queste cornucopie, queste fanciulle, queste tavole imbandite, come dire, guarda, tu devi morire, lascia perdere queste cose qua. Lì si mostrava la lussura, la concupiscenza, il lusso, sempre poi nella sua fase putrefattiva, finale, punitiva. Emiliano, come siamo arrivati noi da questo genere Melò poi a una passione simile per le grandi soap o le telenovelas brasiliane? Perché poi la televisione è stata una grande mediatrice di questo spirito. Sì, infatti l'ascoltatore ricorda un passaggio decisivo per la conoscenza di questo genere di film da parte delle generazioni. Non li vedeva al cinema lui con nonna e mamma. No, le abbiamo, credo anche Sansonna, per esempio, le abbiamo viste in televisione, le abbiamo viste nelle televisioni private. Cioè all'alba della televisione commerciale in Italia, una delle trovate che hanno i dirigenti di Canale 5, credo fosse allora, fu proprio questa, di mandare il pomeriggio alle 2 i film di Matarazzo con il sottotitolo di Pomeriggio con sentimento. Mi sembra che costassero pochissimo appunto i diritti. Sì, loro avevano tutta la library e riuscirono a rompere proprio quella fascia lì. Prima non esisteva che negli anni 70 una casalinga alle 2 del pomeriggio stesse lì a guardare la televisione. Assolutamente. Questa sì. Cosa comincia con Matarazzo mandato in onda dai dirigenti di Canale 5, da Carlo Freccero in particolare. Da lì poi, in quella fascia lì, infatti poi arriveranno le soap, prima le telenovele brasiliane, poi le soap e poi Maria De Filippi. Quindi crearono un riflesso condizionato, sì, nelle casalinghe, come il cane di Pavlov, che a quell'ora doveva scottare la lacrima e il singulto, sì, passionale, e da Matarazzo si passò poi a Anche ricchi piangono, anche a Sonia a Braga e tutte queste, sì, cose, sì, qua. Giuseppe Sansonna. C'è un'altra cosa molto bella che sottolinei nel libro Emiliano, che è il rapporto domestico con la televisione che richiude queste donne in casa, specie nel sud Italia. Prima andavano al cinema e c'era l'evasione, poi quando arrivò la televisione cominciò anche a assorbire questo tipo di visione. Sì, è strano, è controintuitiva come cosa, perché uno pensa che arriva il boom e le donne si emancipano. No, arriva il boom, arriva la televisione e le donne restano più in casa di quanto ci stavano prima. Infatti i generi del boom non hanno le donne al centro. Beh, questa era la chiave mefitica di tutti gli elettrodomestici. La regina dei caroselli era la casalinga, che era così felice perché aveva il frullatore, il forno elettrico, la cucina svedese, il masso vibratore, tutte cose che la tenevano legata comunque con la tecnologia ai suoi doveri domestici, e da lì non si poteva muovere. Sposarsi soltanto per assicurarsi il futuro, per non dover aver paura, perché mi rendo conto di quello che tu hai dimenticato o hai sempre avuto paura di pensare. Non voglio buttarmi via come una cosa senza importanza. Io valgo di più. Se da quando hai sposato papà non hai altra personalità che la sua e non riesci a vedere più lontano della porta di casa. Ah no, senti, questo non te lo permetto. Hai ragione, mamma, il torto è mio che parlo troppo. Ma io voglio che tu abbia fiducia in me, che tu ti confidi. Oh, è difficile, sai. L'hai visto anche tu. Il mondo cambia, le idee anche. E forse in fondo sono io che... Niente, non parliamone più. Ah, no, bisogna parlarne, bisogna parlarne. Ma non capisci che stai dicendo delle sciocchezze, delle enormi sciocchezze? Ebbene, allora lasciatemi stare, te, papà e Fernando! No, improvvisamente ho avuto un trip. Il cavallo della Vidal sulla spiaggia. Il Cinar. Vedi che poi i primi caroselli c'è una sorta di contaminazione. Giuseppe Sanzon, adesso dillo te, di cosa stiamo parlando? Questa è una figlia ribelle, cos'è? Esatto, è la François Christophe, una donna libera del 54 di Vittorio Cottafabi, che era un genio che entrò, come giustamente sottolinea Emiliano, entrò nel genere rivisitandolo brechtianamente, guardandolo dall'interno, insomma, mostrandone anche i meccanismi. Qui c'è la Christophe che parla con l'attrice dei telefoni bianchi che fa la madre o che aiuta, depressa dalla vita coniugale, e dice guarda, che invece cerca di raccontare le lepidezze e le bellezze del matrimonio. Ti devi sposare, devi diventare come me, non vedi come sono felice? Guardandomi, e quella si mette a piangere naturalmente. E lei appunto riesce a fare questo discorso, questa sorta di autoaffermazione, e quindi riesce a raccontare se stessa e la propria nolontà a chiudersi in questa vita domestica. Quindi diciamo era uno strumento multimediale, didattico e terapeutico, che doveva aiutare la famiglia a mantenersi unita e a rimanere quello specchio illuminato di virtù specchiate, appunto. 800 24 00 24, datevi una mossa, ditemi cosa vi viene in mente ascoltando questi film, sentendo semplicemente le trame e il racconto. Possibile che nella vostra vita personale non è stata mai lambita da qualcosa del genere? Una mamma, una nonna, una zia, un pensiero, una parola di troppo che vi fa ricordare il clima di questi film? A tra un istante, dopo le informazioni della borsa. Non basta ancora, dobbiamo farle sputare l'anima sotto le frustate. No, no, abbiate pietà. Pietà? E sei tu che chiedi pietà per lei? Vieni, è il momento di vendicarti, frustala. Io non voglio la vendetta, non voglio tutti questi orrori. Basta, basta, vi scongiuro. Ha già scontato. Beh, ci siamo arrivati alle frustate, era ora finalmente. Qua stanno selvaggiamente frustando due donne e un'altra donna. Quindi è l'apoteosi dell'immaginario sadomaso di ogni filmettino zozzo si può scaricare da YouPorn. Emiliano Morreale, critico e studioso di cinema, scrive anche per Il Sole 24 Ore, ha scritto così, Piangevano. È un libro edito da Donzelli, il cinema Melone, l'Italia degli anni 50. Forse molti di coloro che ascoltavano non sapevano cosa fosse il cinema Melone. Emiliano ve lo sta raccontando. In questo caso cosa succede? Cos'è questa scena di frusta e sangue? Questa è La nave delle donne maledette, che è un po' un caso a parte. È un film di Raffaello Matarazzo del 54. Io nacqui l'anno in cui uscì questo meraviglioso film. Ecco, forse mia madre fu stimolata da questo film nel concepire. Speriamo di no, io... Però sì, La nave delle donne maledette è un film nel quale tutto quello di represso, di sessualità repressa che c'è nei film degli altri film di Matarazzo, quelli con Amedeo Nazzari, in cui l'istituto matrimoniale è sempre minato dal di dentro da questa donna un po' desiderante. E qui vola alle frustate, siamo arrivati finalmente al tosto. Con la scusa che è un film in costume, a colori, quindi ambientato in un passato, in un luogo di fantasia, succede che c'è una nave delle donne maledette, appunto di reprobe, di cattive nel senso proprio, come dire... Ma da dove venivano queste? Sono delle donne che vengono mandate in un bagno penale. Siamo in un'isoletta dei Caraibi, vengono spedite, quindi sono dall'adultera all'omicida, tutti i tipi di donne peccatrici, infilate in questa nave e spedite ai Caraibi. Queste donne, convoglio infernale. Esattamente, queste fanno la rivoluzione. Cioè, in topless, ci sono proprio le scene dell'edizione francese con loro in Italia l'avevano tolte. Però nella versione francese ci sono loro in topless che a un certo punto disarmano i loro carcerieri e in una specie di tipo fate l'amore, non fate la guerra, gli tolgono le pistole di mano, li abbrancano e si lanciano una gigantesca ammucchiata sul ponte della nave. Ovviamente, quindi c'è un passaggio di pistola non soltanto metaforico. Sì, Matarazzo, non è uno sdrucciolamento lessicale, ma no, è proprio fisicamente c'è questa cosa. E poi ovviamente cosa succede? Che tutta questa sensualità potentissima che esplode sullo schermo con queste donne che hanno preso il timone della nave, proprio letteralmente, a questo punto non si può, almeno alla fine vanno punite, quindi c'è una tempesta e muoiono tutti. Questo film era stato definito il Potionkin democristiano, perché era in qualche modo si sterminano tutte le donne. Anche la nave delle donne di Ponti, perché un po' era chiamato anche la nave delle donne di Ponti, perché pare che tutte le attrici, soprattutto le attricette presenti diciamo nel cast, avessero avuto relazioni con il produttore. E che sarà mai, così diciamo, le maestranze di Cinecittà l'avevano soprannominata così, si riferisce in un era in epoca pre Sofia Loren, però immediatamente prima. Immediatamente prima, poi arrivò lei. E... quindi la sciagura che redime queste, appunto, queste donne discinte che devono pagare, le varie May Britt, appunto, Tania Weber, insomma, che devono pagare, espiare in questo esotismo colonialista, insomma, che tipico di quegli anni. Cioè, qualcosa poi ritornerà nel cinema di genere di qualche anno dopo, in queste storie di naziste, di donne, sì, cattive. Ma anche Woman in Prison, questo è un genere, è un sottogenere, donne carcerate, sì, c'è sempre questa allusione un po' ma all'epoca questo c'è le donne lì davvero, anche se uno guarda alcune inquadrature, anche quando non sono in prigione fisicamente lo sono, nel senso che spesso hanno, ci sono queste inquadrature tipiche di donne dietro delle grate, delle sbarre. Ce n'è una bellissima in uno di questi melopi, per esempio, dove addirittura le grate, queste ombre non sono né quelle del convento né quelle del carcere, ma addirittura della testiera del letto. Ci sono un uomo e una donna a letto, uno vede le sbarre della testiera, sì, quindi sì. È anche quella la prigione. Cioè, c'è un sottile molto... piacere della donna sbarrata. Paola, buongiorno. Buongiorno, salve a tutti i suoi ospiti anche. Cosa le ha ispirato l'ascolto di queste fantastiche sequenze? Allora, mi ha ispirato ricordi di infanzia, nel senso che io ho 44 anni, sono cresciuta con una madre che divorava questo genere di film e a sua volta era, come dire, schiava, senza sangue, senza frusta, ma di un marito affermato nel suo lavoro che era una sorta di padre padrone. Quindi c'era un rispecchiamento concreto fra fantasia e realtà? Ma assolutamente, lei me la ricordo, sempre attaccata alla televisione, col fazzoletto in mano, che guardava questi film come se fossero una rivelazione. Ma la cosa sconvolgente è che questo suo tipo di atteggiamento, perché evidentemente lei si rispecchiava in queste donne costrette, ha segnato la mia vita, perché io ho cominciato a 20 anni. Il primo, diciamo, fidanzato che ho avuto era un signore di 44, sposato con figli. Poi sono passata al contrario, a 40 anni, ad avere un amante di 25. Quindi lei secondo lei ha coltivato una lussuria sfrenata a seguito di questo suo rapporto con la madre? Non una lussuria sfrenata, però sicuramente un rapporto assolutamente non convenzionale, di ragazza per bene, di buona famiglia. Io volevo essere... Non è che sia proprio una bambina, ormai può usare, diciamo, lo strumento dell'intima d'azione a suo piacere, come vuole. Esatto, adesso sono felicemente sposata, però le dico che, per esempio, ciò non osta, però, pur avendo un figlio che ha più di 10 anni, ho trovato il coraggio di sposarmi soltanto 2 anni fa, perché come mi si proponeva la parola matrimonio, io mi riempivo di bolle, cioè reazioni allergiche proprio. E credo che adesso la fa, usa delle creme particolari per non farsi accorgere da suo marito? No, adesso sono molto felice, anzi... È venuta la redenzione. Avrei dovuto sposarlo prima, perché sicuramente... Nel suo momento di catarsi, che sono momenti passeggeri, poi ritornano le vene profonde che lei sta reprimendo, ma questo mi auguro che farà la sua felicità. Laura. Buongiorno. Invece lei? Senta, io ho tutta un'esperienza completamente diversa da quella signora. Io avevo circa 12 anni quando mia madre, che era una donna libera, con un matrimonio meraviglioso con mio padre. Mia madre andava in giro, andava con le amiche, andava a prendere il tè, faceva le faccende domestiche aiutata da un'altra signora, mio padre. Insomma, era un matrimonio felice. E invece? Sì, e questi film a me... Io ero una bimba, avevo 12 anni, e mi piacevano a mia madre e piacevano a me. Si vedevano queste scene così belle, la suora quando incontra il bimbo che gli dà da bere e lei era la sua mamma, era una cosa che commuoveva. Sì, sì. Vieni a me, guardi, un groppo alla gola che la sto ascoltando in questo momento. Eravamo più semplici, capito? Più semplici a quel punto, negli anni 50. Anche gli uomini avevano le lacrime agli occhi nelle sale cinematografiche. E poi c'era quell'altro film bellissimo di quel bimbo, tanto vessato, I figli di nessuno, era tremendo. Emiliano, ti ricordi Il figlio di nessuno, di cosa stiamo parlando? Sì, sì, è proprio poco fa la signora raccontava una scena, di quella scena più famosa del film, quando mamma e figlio si incontrano senza sapere di essere mamma e figlio, e però il regista lascia intuire qualcosa. La scintilla della natura che si guarda e capisci che la natura forse li sta rivelando. Invece questo Figlio di nessuno di cui sta parlando l'ascoltatrice. Il figlio di nessuno è questo qui, è il film successivo a, sempre della serie Catene, Tormento, I figli di nessuno, prima dell'Angelo Bianco, insomma. Stefania. Sì, io volevo, notavo una cosa, che mentre la rieducazione della donna ribelle agli stereotipi, quelli classici, quindi gli errori commessi, fino a un certo punto nella storia del cinema si concludeva sempre immancabilmente con la tragicità, il finale tragico. Bene che gli andava in convento di clausura, ma proprio bene che gli andava. Esatto, o moriva, i figli magari morivano anche essi. Ma con stenti, malattie molto, molto dolorose, certo. Poi io ho notato che con gli anni, voglio dire, qualcosina è cambiato, e nella rivalutazione di figure di donne ribelli che cancellate dalla storia, che ora affiorano nella storia, nelle varie anche materie, filosofia, nella storia, nelle scienze, eccetera, anche nei film che vengono fatti su queste figure che erano state... Ma lei parla di Pazia. Di Pazia, ma anche Artemisia Gentileschi. Artemisia, sì. Tutte quelle... però andiamo un po' indietro nella storia, personaggi fra il reale e il leggendario. Qua parliamo delle nostre mamme, delle nostre nonne, di roba di carne pulsante che ci ha generato, quindi qualcosa molto più vicino. Io lascerei un attimo l'aspetto mitico, mitologico, che appartiene ormai, è stato santificato dal racconto e dalla trasposizione storica, fermerei a ciò che fa parte della nostra esperienza personale. 800240024. Ci fermiamo un minuto per le informazioni del traffico. Mi dispiace, ma non si può più mentire. È arrivato il momento di dire la verità. Osvaldo non è mio cugino. Osvaldo... Ti pare questo il luogo per parlare di ciò? Sì, Harry. Anche se è tardi. Se avessi parlato a suo tempo, Cesarina non sarebbe finita così. La collana non è stata Cesarina a rubarla. Ma lui... Ma che dici? Sì. Lo ricevetti in camera mia il giorno precedente. Non so nemmeno di che collana stai parlando. Silenzio. Lasciai che tu sospettassi di lei. Ti ricordi? Avevo paura che facendo le indagini venisse fuori la verità, e allora... Questo rumore di sottofondo, se la stanno passando al tritacarne, una macchina... No, no, sono in questura perché appunto... Ah, sta facendo il verbale questo il verbale, questo siamo nelle infedeli. Giuseppe Sanzonna, ricordo, regista, nostra voce settimanale di analisi del cinema, devo dire che esce in libreria proprio in questi giorni, anzi venerdì, Il ritorno di Zeman, cofanetto col libro più due DVD, edizioni Minimum Fax. Dai, hai fatto il tuo bel lavoro. Dunque, no, dimmi qua, di cosa stai parlando qua? Le infedeli, l'infedele confessa. Qui, esatto, siamo in piena una rivisitazione di Monicelli e Steno, che ci mettono la loro ironia rispetto al Matarazzo, che invece deriva con una potenza sentimentale deflagrante. Quindi, era il suo genere. Però quello che emerge molto bene dal libro di Emiliano è la centralità delle figure femminili, che poi verranno gradualmente riprese dagli autori successivi, quali Antonioni con La signora senza cameli e Visconti appunto con i suoi melodrammi, ma anche Pietrangeli con Adue e le compagne, con tutti i film che ha dedicato alla donna. Quindi qui c'è una base in cui si parla delle donne e le si mette in condizione. Poi c'era già una maggiore leggerezza a quel punto, non sentiva questa cappa plumbea del castigo divino che doveva colpire sempre l'adultera, la peccatrice, la reprobra e via dicendo. Sì, Matarazzo dice proprio il piacere voluttuoso del cattolico che appunto vuole mettere in condizione di peccato estremo per poi provare quella voluttà. C'era anche una sottile lustura però nel vedere il tormento di queste persone. C'erano. Le temeva allo stesso tempo, ma le concupiva, come accade sempre nel più umido dei sogni del seminarista. Angelo. Sì, buongiorno a tutti. Io volevo riportare una mia esperienza personale. Ho 33 anni e quando ero piccolo, verso i primi anni 80, mi ricordo che molto spesso il sabato mattina o la domenica facevo colazione con mia nonna vedendo questi film che erano un po' tragici per me a quell'età. Mi mettevano sempre un po' paura di queste famiglie disastrate, rovinate, e quindi poi, diciamo, nel corso della giornata ogni tanto rimuginavo questa cosa immaginandomi un po' se accadesse a me lo stesso. Vabbè, il compito di sua nonna era proprio quello di far vedere, vedi cosa succede nelle cattive famiglie, sii felice, contento, ringrazia la tua fantastica famiglia. Emiliano Morreale, autore di Così piangevano, il libro uscito in questi giorni sul cinema Melò per la Donzelli, che spiega e racconta questo genere, devo dire, rimosso del nostro cinema. C'è una costante, abbiamo già detto all'inizio, tutte le persone che ci chiamano, a parte un paio di casi, hanno visto questi film grazie alla televisione. Ridiciamo qualcosa su questo cortocircuito. La TV commerciale nei primi anni 80, fine anni 70, ebbe bisogno di attingere a contenuti di poco prezzo e mandò questa roba. Sì, mandò tutti i film di Matarazzo, il magazzino della Titanus, perché erano film prodotti dalla Titanus, da Goffredo Lombardo, e così riempì soprattutto la cosa importante, questa, una nuova fascia oraria. L'ascoltatore prima citava la mattina, ma fu soprattutto il primo pomeriggio, diciamo il post pranzo, a diventare un momento della giornata in cui le donne guardavano la televisione, guardavano storie strappalacrime alla televisione. Questo fatto che le donne dopo pranzo guardino storie strappalacrime alla televisione diventa la stessa cosa poi con telenovele brasiliane, americane, soap, questo è importante anche in fondo con Maria De Filippi e con questo nuovo un cambio di format, ma in fondo è sempre sì. Catene, insomma. Diciamo la loro astinenza, la loro fame non soddisfatta di lacrime, poi è andato nei programmi serali Maria De Filippi, in questo è bravissima, c'è una lettera per te, c'è posta per te, sono sempre queste, hanno voglia di piangere, viene ricostruito il melò nel set televisivo attraverso il gioco degli specchi. Giuseppe Sansonna, non trovi singolare? Quelli erano gli anni in cui alla televisione iniziò colpo grosso, le TV private mandavano film zozzi a tutte le ore, c'erano gli spogliarelli in chroma key, cioè gli uomini avevano un succoso elemento di trasgressione nei felici edonistici anni 80 e le donne avevano questa sorta di ritorno al passato. Sì, c'era questa appunto schizofrenia familiare, se vogliamo chiamarla così, però quello che trovo in questi film degli anni 50 è l'intensità, quelle luci, quelle voci di Amedeo Nazzari, di Tina Lattanzi, fornivano a questi archetipi una intensità che non si perde col tempo, che oggi è ancora forte, mentre via via digradando nella spirale che enunciava Emiliano prima, poi si è arrivati anche ai film melodrammatici attuali delle Comencini e degli Ozpet, che comunque hanno questa visione. Ah, quindi la Comencini, diciamo, è un'emula di questa scuola, una figlia spuria di questo mondo, però sono sempre questi mesti tinelli un po' vacui. Qui appunto la tragedia, io ricordo sempre nelle Fate Ignoranti, quando Andrea Renzi muore, che vedi volteggiare in aria questo manichino, è quasi un effetto comico, e poi comunque in generale è tutto molto slabbrato. Beh, qua molto... c'è l'elemento della gaiezza, che però mi sembra nemmeno lambito in questi film, se non gaiezza femminile. Sì, è una delle tante piccole cose che si possono solo alludere e non mostrare sullo schermo, ma ricordiamo che però in quella chiave, altro che Ozpetek, cioè l'intero melò degli anni 50, americano e non italiano, era stato riletto da Fassbinder, cioè rileggendolo proprio in chiave di reinterpretazione un'icona gay, omosessuale, diciamo. Quel cinema lì è un cinema che è stato riletto anche da tutta la cultura omosessuale in chiave camp, in chiave di travestitismo, diciamo, no? di eccesso delle emozioni, di personaggi super femminili o super maschili, quindi anche di grande mascherata sessuale. Fassbinder ne ha fatto uno strumento politico negli anni 70. Oggi gli autori di Melò, che ci sono pure in Italia, in realtà fanno un cinema comprensibilmente privo di conflitti veri, di tensioni vere, insomma un cinema tutto sommato visivamente e tematicamente superfluo. Sì, ma guarda, noi dobbiamo ringraziare di averci dato spunto di quello su cui stiamo riflettendo, il fatto che ci fosse perlomeno una polarizzazione certa di valori, che era quella appunto della Democrazia Cristiana di quegli anni. Questo film nasce con tutte le sue contraddizioni, le meraviglie che noi ci scrutiamo e andiamo a scavare come i sette nani nella miniera dei diamanti, capito? C'erano perché c'era un elemento di riferimenti reale, oggi non esiste più, oggi è tutto finto, è tutto farlocco. Poi erano riferimenti reali, come dire, di oppressione, ma anche di visivi, cioè c'erano le sacre rappresentazioni nei paesi, cioè se Yvonne Sanson e suo figlio si mettono in una certa postura tutti riconoscono la Sacra Famiglia o la Mater Dolorosa o l'iconografia sacra, cioè c'era un immediato riconoscimento, un linguaggio comune per cui si parlava con un linguaggio visivo, figurativo e di racconto, che era la ricchezza di quei film, anche questo che c'è dietro, tutta una serie di racconti popolari, il romanzo di Carolina Invernizio, il melodramma ottocentesco, proprio l'opera lirica, per questo sono dei testi così ricchi, perché dicono alludono a delle cose che non si possono dire, tirando in mezzo 100 anni di grande racconto e di grandi immagini, soprattutto italiane. Noi dobbiamo ringraziare i grandi momenti di repressione etica, che sono i momenti di scatenamento della massima fantasia nella trasgressione. Non saremmo così se non avessimo vissuto in fanciullezze respiri di questo tipo. Domenico, velocemente. Sì, salve, buongiorno. Io volevo ricordare, non ricordo precisamente questi film se non per averli visti dopo, perché ho 44 anni, però ricordo che negli anni 70, io ero piccolo, ci fu tutto un genere che proveniva dagli Stati Uniti legato a questa voglia di piangere. Io ricordo L'ultima neve di primavera, il lago... I Lacrima Movie, ma questo è stato un argomento che con, abbiamo affrontato, con Giuseppe Sansone abbiamo affrontato e sviscerato. Il Lacrima Movie, se voi avete nostalgia del Lacrima Movie, torneremo su questo tema quanto prima. Grazie Emiliano Monreale, grazie Giuseppe Sansone, grazie al professor Chiappini e a Fabrizio Intonti, a domani. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.